Funky, Vita, Psycho, Cioccolato Bianco. Ascolta sa voci de su nevori, in aggiornare soli, guste su savori, sti su sono protettori, vossa gente afrori, essa mori, vossa rappa ne vorrà presenta, vossa gente macca, boghi nisi zaccara, le un nomi verdi in chiacchiera, zaino essa gente zattiera, azia res manus, frullendi grana, cincannusu, le varano ie grammusu, dentandusu, apugu mezza comprendi esatrusu, ma vianta mancusu, ed è un normali, tanto balli, camisetta barri, venza in descazzu miusu, rappa gun sa basche gun su vriusu, du su zeusu, e grazia sa deusu. Imbriago su prughi pore su e su sono di asuta movi su gu e ascuta serra sa buca sigaretta lutta gamma ciupa sa zambuca aio zigi zigi zigi mi guste somini gannosi scittili e no timili pogantu biviri con genti simili a tia su brindisi ne bo faccio rima 100% ne bo.